cammino grida, persone senza grinta, tolta dalla salita, saliva zerata, bacio di dama ridona, acqua come di Giuda, Dio benedica la mia opera, fantasma dell'opera. Gridano cavalli su distese di vetri rotti, stridono gioielli dal dolore di lame corrotti, pensieri fini fini come passi piccini, poco metro in avanti fino a sfiorare con due orme cieli così vicini da non sembrare più lontani, più distanti. Papà, la tua voce dentro eloquenza, io figlio della delinquenza, del diavolo, vendita d'anima lirica, limpida ora, terza di una lacrima, non ti faccio una colpa alle botte prese per un'occasione persa, vorrei scrivere la più bella canzone per farci tacere, una lezione per poterti anche insegnare, come tu mi hai insegnato sacrificio e passione, nel nostro sangue il contollangue e il mondo fa vomitare, lo sappiamo, ma ci siamo dovuti immolare, attacchi di cuore ci uniscono, di cui mai ho voluto parlare, parlarti, perché il mio cuore ora integro, ora vuole parlare, ora vuole esplodere, ora vuole volare, ora tornare ad amare. Vorrei dirti ora senza rancore parte dei miei occhi, donarti per poter farti guardare, del mio cuore parte per farti ribattere un pezzo di cuore mio immortale nel tuo petto. Mamma e papà, vorrei salvarvi, ma gli anni passano lo stesso, i miei miracoli sono pieni di grammi, gli psicofarmaci uccidono le emozioni, ma le mie canzoni, gli psichiatri. Cari mamma e papà, molti ragazzi saggi sono morti per nulla, in vani sui monti dove non arrivano in tanti, io uno su 100.000 e ce l'ho fatta, papi, partendo come te da niente, perdendo battaglie ma poi vincendo guerre. Vi ricorderò in serie di dolcezze, in questa canzone piena d'ebbrezza, che nuova droga, nessuna droga può essere all'altezza.